giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. Alceste Campanile è un giovane di 22 anni. Un ragazzo alto, un po' più della media. Capelli castani, occhi azzurri, snello. Un carattere aperto e leale. Ama la musica, suona la chitarra elettrica in un complesso della zona e divora ogni libro. A Reggio Emilia Alceste Campanile è conosciuto come leader del Circolo Ottobre, un'emanazione di lotta continua. Ma alcuni anni prima, ai tempi della scuola, Alceste milita nelle organizzazioni di estrema destra. Un'anomalia. Un fascista ha dichiarato che passa alla sinistra in poco tempo. Una maturazione, diranno i compagni. Un tradimento, sosterranno nei volantini camerati del fronte della gioventù. 12 giugno 1975, mancano 3 giorni alle elezioni amministrative. Intorno alle 23 Alceste si trova in località Convoglio, proprio sulla strada che collega Montecchio a Sant'Ilario nei dintorni di Reggio Emilia. Viene giustiziato con 2 colpi di pistola, uno alla nuca, il secondo dritto al cuore. La dinamica della sua uccisione risulta però strana. Non esistono segni di colluttazione. Una giovane coppia ritrova il corpo senza vita di Alceste, il dottor Francesco Fochi, e realizzerà la perizia autoptica sul corpo del giovane. La notte tra il 12 e il 13 giugno mi trovavo con alcuni amici, con i conoscenti, in un locale per mangiare un panino dopo aver passato la sera in una riunione a Reggio Emilia. Abbiamo avuto la sgradita sorpresa di avere una coppia di amici, marito e moglie, che di ritorno da una loro serata a Parma avevano rinvenuto sulla strada di Sant'Ilario il corpo di una persona apparentemente giovane, sicuramente o gravemente ferita o morta, per cui erano corsi in paese a chiedere aiuto a qualcuno. Siamo andati a vedere cosa era successo. È stato subito evidente che si trattava di un cadavere. Portava una camicia jeans e una ciubbino jeans, nonostante fosse abbastanza, però pioveva un po', quindi il caldo non era forte, e la giacca era spostata dalla linea mediana e si vedeva sul taschino della camicia il segno di un foro e con bruciature intorno e una macchia di sangue molto modesta. Partono le indagini. Il 17 giugno viene trovato a Parma, in seguito ad una telefonata, un volantino dell'organizzazione fascista Legione Europa, in cui si rivendica l'assassinio di Alceste. Il 18 giugno viene fermato l'esponente della destra eversiva, Donatello Balabeni. Tutto sembra portare ad una pista di destra fino al 1 ottobre del 75. I periodici, il settimanale e Gente, riportano le dichiarazioni del padre di Alceste, Vittorio Campanile, secondo cui i colpevoli vanno ricercati fra i suoi amici più recenti, cioè quelli che aveva conosciuto negli ultimi 18 mesi militando in lotta continua. Immovente. Alceste Campanile era al corrente di importanti informazioni relative al sequestro di Carlo Saroni, rapito da uomini dell'autonomia operaia e poi assassinato negli aprile del 75. Quindi ad uccidere Alceste Campanile non sarebbero stati fascisti, come sostenuto dai suoi amici e compagni, bensì i giovani dei collettivi autonomi, come indicato dal padre. 11 febbraio 1979, il quotidiano Lotta Continua pubblica alcune pagine sull'omicidio di 4 anni prima. È un'inchiesta sulla morte di Alceste Campanile, un'indagine collettiva, come nello stile di quegli anni. Il giornale avverte che ha qualcosa da dire padre. L'omertà è uno stile mafioso. Il comunismo non ha niente a che vedere con la mafia, scrive Lotta Continua. Parole due, scritte da Marco Boate, allora dirigente di quell'organizzazione. Abbiamo cercato di ricomporre tutto il quadro. In primo luogo c'era la meccanica dell'uccisione, che fin dall'inizio ci aveva molto insospettito. C'è una meccanica da esecuzione a freddo, che era diversa dalla meccanica solita, diciamo così, tragicamente solita di certi agguati fascisti. La seconda cosa erano delle voci che avevano cominciato a circolare dalla fine del 77 in poi, o dalla metà del 77 in poi, in ambienti, diciamo così, genericamente dell'area dell'autonomia emiliana, del tipo... state attenti a non fare la fine di Alceste Campanile, che faceva ipotizzare che qualcuno in quell'area sapesse che Alceste Campanile era stato ucciso, per così dire, dalla sinistra. Il terzo elemento era il fatto che il padre, pur facendo un polverone, cioè pur accusando una quantità di gente di cui la maggior parte ritengo innocenti, aveva comunque insistito molto sulla connessione fra l'uccisione del Ceste Campanile e l'omicidio Saronio, e noi avevamo assunto almeno come ipotesi positivamente questa accusa. L'ultimo elemento che anche dall'interno di un carcere ci erano arrivate delle segnalazioni molto vaghe, ma delle segnalazioni in questa direzione che, congiunte con gli altri indizi, diciamo così, o sospetti che c'erano emersi precedentemente, ci avevano portati a formulare questa ipotesi e a decidere di presentarla pubblicamente come atto di denuncia politica e morale. 1999. 20 anni dopo l'omicidio di Alceste Campanile arriva la sponda. Un bandito, Paolo Bellini, negli anni 70 esponente di Avanguardia Nazionale, un fascista dichiarato, viene arrestato per alcuni furti e davanti ai magistrati confessa: sono stato io ad uccidere Alceste Campanile, ero solo la sera del 12 giugno 1975. Paolo Bellini spiega i motivi dell'omicidio, lui conosce da tempo Alceste, i due sono coetanei e nel loro passato c'è un'esperienza nel fronte della gioventù poi chiusa per motivi diversi. La notte del delitto Bellini sa dove trovare Campanile, sulla strada, mentre chiede un passaggio in autostop. Così Bellini lo raggiunge con la sua vettura e con un escamotaggio lo fa salire. E poi con una scusa lo porta in un viottolo nelle campagne di Montecchio. Sotto la minaccia della pistola lo fa scendere dalla vettura e gli ordina di inginocchiarsi e poi gli spara due colpi, alla nuca e al cuore. Ma è credibile la versione fornita agli inquirenti da Paolo Bellini, l'avvocato Domenico Noris Pucchi, avvocato di parte civile. Relativamente al processo di Reggio Emilia, in cui Bellini chiamava in correità altre persone in relazione a determinati omicidi, queste persone chiamate in correità sono state assolte dagli omicidi. Io non posso dire che la Corte d'Assise abbia accolto in pieno la nostra tesi sull'inattendibilità di Bellini. Dalla lettura del dispositivo, che ha assolto i chiamati in correità da Bellini, si può però supporre quantomeno che le dichiarazioni di Bellini non siano state riscontrate, quindi che la Corte d'Assise non abbia ritenuto riscontrate adeguatamente le dichiarazioni di Bellini. Paolo Bellini fa nomi e cognomi, tira in ballo alcuni ex neofascisti della provincia di Reggio Emilia, tutti iscritti nel registro degli indagati dal procuratore capo di Reggio, Italo Materia, titolare delle ultime indagini sulla morte di Alceste Campanile. Questo, quello che sentirete, è un passaggio importante della lunga deposizione di Paolo Bellini. Frequentavo il Movimento Sociale e la Giovane Italia come Alceste Campanile. Poi lui andò a Lotta Continua, si iscrisse all'università. Una sera Campanile, insieme ad un altro giovane, tentò di compiere un attentato incendiario contro l'albergo della mia famiglia alla Mucciatella, sulle colline tra Puglianello e Albinea. Il 12 giugno 1975 stavo andando a Parma. Era sera. Ero tra Montecchio e Sant'Ilario. A un certo punto vedo uno che fa l'autostop. Mi avvicino e riconosco Alceste Campanile. Penso, adesso gli do il passaggio. Mi sono fermato. Ho aperto lo sportello, stando chinato. Dove vai? E lui mi disse, vado a Montecchio. Dai, sali che ti do un passaggio. Lui non mi riconobbe perché era buio. Avevo una pistola. Lui salì. Parlammo di quando era venuto a casa mia con la tanica di benzina e lui insisteva che i fascisti andavano eliminati. Visto l'accanimento, io dissi, beh, adesso scendi qui. Gli dissi, mettiti in ginocchio. Lui si mise in ginocchio e dissi, pensi che io stavo scherzando? Mi è partito un colpo, forse dalla rabbia. Tutto chiaro? L'indagine sembra dare ragione alla versione di Paolo Bellini, ma forse il vero movente dell'uccisione di Alceste Campanile resta ad oggi ancora nell'ombra.